risolvi il problema, se già lo sai, tu più o meno cosa vuoi. Com'è adesso la relazione così? No, è qua. sai, guarda che non stavo pilotando a 10 e non mi tieni tutto al massimo. Lasciamo vedere che lo abbassiamo un po', me lo portiamo a sera, a 6, diciamo, ecco lì, e spingiamo stesso. Poi domani se ho 10 minuti mi taglio quello in tempo, tranquillo sulla palla, la fa il culo. Alessandro deve essere lontano adesso. Aspetta, non mi sento. Che cosa è lui? Io tutto a posto in onda. Non mi sento. E cosa mi dici? Non mi sento. Sandro, dove stai? Sandro, non sta solo. Ma dove? Ma non può sì. Ciao, Tu. Come sarà? Sarà bene, se va bene. Aspetta un attimino, Facche. Vieni qua, sogno. Avanti che vuole entrare nel canale 10. Tutto vedo a capo. Minchia, scena per qui si è proprio a dopo stasera, Deve essere, sono tutti al mare. Così, a tutti al mare, a bagnarsi le ghiatte gare. Grazie a loro che lo possono fare, non come me, no, povero disgraziato. Simino, ma sono venuto subito. Sì, a tu, che preso hai? Mamma mia, come sto? Aria, io ho detto solo aria, dai, poi mi c'è scritto il culo, va bene. state ben ascoltate per entrare. Ciao, ok, buonasera, ben ascoltato a te. No, hai pienamente ragione, Quando devo uscire, ho preso. Non è che li puoi degli aspetta dentro. Sempre un trullio, eh. No, vedi, già tu col trullio, è aria, si chiama aria compressata. Se tu non butti l'aria fuori, succede, o sciupi, o crimi, due sono i grossi, o si scioppa o crimi, due sono sempre quelle cose lì. Sì, io sono d'accordo con te Falchetto, però tanto quando esci fate via come? Sì, ma dipende sempre ciò che si mangia, vedi, io per esempio mangio le rose e lo faccio profumato, capito? Vero tu? Non fare di mani, chiappa. Allora mi credi, mi sa, come credi? Quando mi sente? Capra. Piccolino, non riesco a tirarti fuori, dai. Capra, dai. Chi ha fatto io? Avanti. Sai, le persone sono curiose, ci sono anche le persone che sono curiose, piace ascoltare, poi fanno io, e poi non entrano. E bisogna accettare tutto nella faccia della terra, il bello, il brutto e il cattivo. Confermi, cosa dici? Si conferma, dai. E si conferma, bisogna accettare il brutto, il bello e il cattivo. Ecco, Paderosci. E allora, Sandri, lunga giornata oggi? Aspetta un pochettino. E anche non ti vai con i cigarri? Sì, fino a qua. Che andiamo chiari, limpidi come il trucchio. Poi se c'è qualche ascoltone che... che magari... Sì. Spegni che si sta bruciando, se no... Aspetta che rispondiamo, guardi. Questa è la voce del padrone, attenzione perché è tu e tuo, aspetta. Ma che ciò che mi chiama ne ha tanto? Dite da Monte Bianchino, e tu sei della Tirozzi, sì. Anche se è a fondo scala. Già ti sento. Caffa. Ti prendi qualche? Pacchetto? Perché? Beh, fatto di sì. Cambio. Attenzione, pacchetto, cambio. Maleducato, e ti trovo ti altro, tu quanto a caccia in culo. fatto la mente in culo gli altri. Ti faccio uno scherzo, cazzo, che manco. Cazzo, che non te l'ha fatto mai nessuno, guarda. Su questo canale?